Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Domani si celebra la giornata del Parkinson, malattia neurodegenerativa che nel nostro paese interessa circa 250.000 persone, di cui il 50% ancora in età lavorativa. Ma sappiamo che il numero è destinato a raddoppiare nei prossimi 15 anni. In occasione della giornata parte il primo studio italiano multicentrico per la valutazione dei fattori di rischio e dei fattori di prevenzione di questa malattia. A Obiettivo Salute il professor Pietro Cortelli, docente di neurologia all'Università di Bologna e presidente dell'Accademia Limpe Dismov. Malattia che si può presentare in tanti modi e che noi possiamo curare inizialmente aumentando la capacità dell'esercizio fisico, curando bene l'alimentazione e usando i farmaci necessari, e poi anche in fasi più avanzate oggi abbiamo tante possibilità terapeutiche per mantenere la buona qualità di vita dei nostri pazienti. Questa giornata celebra anche da parte dell'Accademia Limpedismo la necessità di fare uno studio ampio, il più ampio che è stato fatto per adesso in tutto il mondo, che vada ad esaminare quali sono le caratteristiche che si associano all'esordio della malattia di Parkinson e quelle soprattutto negli anni precedenti. Chiaro che questi dati ci dovrebbero essere necessari per trovare altre nuove terapie e altri nuovi target terapeutici. Si chiama Confido, quattro zampe in corsia, è il primo progetto scientifico di pet therapy in grado di dare benefici fisici e psicologici ai malati affetti da SLA e da malattie neuromuscolari. I risultati dei primi 9 mesi di ricerca, presentati a Genova in anteprima, saranno illustrati al prossimo simposio mondiale sulla SLA a Boston. A Obiettivo Salute ci parla dello studio la dottoressa Manuela Vignolo, medico fisiatra presso il centro Nemo di Arenzano. Il nostro studio, diciamo che siamo orgogliosi di avere portato a termine, si è potuto realizzare solo grazie all'intervento e al sostegno di Mondo Vicino Outlet Village e di Fondazione Viali e Mauro per lo sport e la ricerca Onlus. E ha potuto dimostrare, grazie ai 9 mesi di ricerca, i risultati preliminari ci mostrano come c'è un miglioramento statisticamente significativo sia dal versante psicologico che a livello di performance motoria. Sul versante psicologico si ha una diminuzione dei vissuti di ansia e di depressione da parte dei pazienti, dato che va a confermare quello dello studio preliminare pilota che è stato fatto fino a gennaio di quest'anno, e a cui si sommano anche gli effetti, diciamo, sull'area motoria, con un miglioramento dell'equilibrio e della stabilità dei pazienti che hanno eseguito un'attività assistita con animale rispetto agli altri. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue come sempre con Melog. Io invece vi aspetto in diretta video con Mike Maric per parlare di respiro, e intanto noi ci sentiamo domani e domenica a Obiettivo Salute Weekend e con la bufala in tavola, insomma non perdiamoci di vista. Buona giornata da Nicoletta.